Capitolo 23. L'incantesimo. Quando tornarono a casa, trovarono il dottor Craven che li stava aspettando da un bel po' e che si stava chiedendo se non fosse stato meglio mandare qualcuno a cercarli lungo i vialetti e i sentieri del giardino. Non appena Colin fu riportato in camera, il povero dottore lo guardò con aria preoccupata. «Non saresti dovuto rimanere fuori così tanto», disse. «Non dovevi stancarti troppo». «Non sono affatto stanco», disse Colin. «Mi ha fatto bene uscire all'aria aperta. Domani andrò fuori di mattina e di pomeriggio». «Non sono certo di potertelo permettere», rispose il dottor Craven. «Sarebbe un'imprudenza». «Sarebbe un'imprudenza cercare di impedirmelo», disse Colin con molta serietà. «Intendo fare a modo mio». Anche Mary si era accorta che Colin non si rendeva minimamente conto di quanto fosse scortese e sgarbato quel suo modo di impartire ordini a tutti. Era vissuto come re incontrastato in una specie di isola deserta e da questa sua esperienza era derivato quel suo contegno intollerabile. Mary era stata come lui, ma da quando si trovava a Misselthwaite aveva compreso a poco che il suo modo di fare non era stato in passato quello tipico di tutte le ragazzine della sua età. Dopo essersi accorta di ciò, Mary pensò naturalmente di informarne il cugino. Dopo che il dottor Craven se ne fu andato, si mise perciò a sedere e a guardare il cugino con insistenza, in silenzio, fino a quando lui non le chiese: «Beh, perché mi guardi così?» «Perché mi dispiace molto per il dottor Craven». «Dispiace anche a me», disse Colin tranquillamente, ma non senza una certa soddisfazione. «Non erediterà Misselthwaite se non muoio». «Naturalmente mi fa pena anche per questo», disse Mary, «ma pensavo soprattutto che non deve essere stato facile per lui, durante tutti questi anni, mostrarsi gentile con un ragazzo sempre sgarbato. Io non ci sarei mai riuscita». «Credi che io sia sgarbato?» chiese Colin senza scomporsi. «Se tu fossi stato suo figlio e lui un padre severo», disse Mary, «ti avrebbe preso sicuramente a sberle». «Non avrebbe mai osato», disse Colin. «È vero», rispose Mary, meditando sulla faccenda con una certa obiettività. «Nessuno ha mai osato fare qualcosa che a te non piacesse. Eri ammalato, dovevi morire, avevano pietà, eri una povera cosuccia da niente». «Ma», annunciò Colin caparbiamente, «non sarò più una cosuccia da niente, non voglio che la gente lo pensi. Oggi mi sono alzato in piedi». «Sì, certo, ma a furia di essere sempre stato accontentato in tutto e per tutto, sei diventato capriccioso», proseguì Mary pensando ad alta voce. Colin si accigliò. «Sono capriccioso?» chiese. «Sì», rispose Mary, «è molto». «Ma non ti devi arrabbiare», aggiunse imparzialmente, «perché anch'io sono così e anche Ben Weatherstaff. Ma io lo sono meno di prima, da quando ho cominciato a trovare simpatica la gente e da quando sono entrata nel giardino». «Oh, io non voglio essere strano», disse Colin. «Voglio essere un ragazzo normale». E si accigliò nuovamente. Era molto orgoglioso. Rifletté per qualche istante, ma poi Mary vide che un bel sorriso gli illuminò il volto. «Sono sicuro che non sarò più strano», disse. «Se andrò ogni giorno nel giardino, nel nostro giardino, regna un incantesimo, Mary. Un incantesimo buono, io ne sono sicuro». «Ne sono sicura anch'io», disse Mary. «E se anche non fosse un incantesimo vero», disse Colin, «possiamo sempre immaginare che ci sia, anche se c'è qualcosa. C'è certamente qualcosa». «È un incantesimo», disse Mary, «ma non si tratta di magia nera, è magia bianca come la neve». Anche in seguito i due ragazzi lo chiamarono incantesimo. In realtà, nei mesi che seguirono, il giardino sembrò veramente incantato. Furono dei mesi meravigliosi, radiosi, stupefacenti. Oh, quante e quali cose non accaddero in quel giardino! Se non avete mai avuto un giardino, non potrete capire. E se avete avuto un giardino, saprete che ci vorrebbe un libro intero per descrivere tutto quello che accadde. All'inizio sembrò che le puntine verdi non dovessero mai finire di spuntare dalla terra, in mezzo all'erba, nelle aiuole o persino nelle crepe dei muri. Poi le puntine verdi crebbero e cominciarono a mostrare dei germogli, e i germogli cominciarono a schiudersi. Fecero la loro comparsa fiori di ogni sfumatura di azzurro e di porpora, di ogni tinta e gradazione. Un tempo, giorni felici, I fiori erano stati seminati o piantati in ogni buco, in ogni angolo, in ogni minuscolo pugno di terra. Ben era stato presente quando furono seminati e piantati, e lui stesso aveva raschiato la calce tra i mattoni del muro e fatto delle sacche di terra perché i fiori vi si attaccassero e crescessero. Iris e gigli bianchi spuntavano a fasci tra l'erba e le verdi nicchie si riempivano di tantissimi fiori azzurri e bianchi, delphinium, colombine, campanelle. Lei li adorava, diceva Ben, il giardiniere. Li adorava perché tutti tendevano al cielo azzurro, non perché disprezzasse la terra, no, certo, amava la terra, ma diceva che il cielo azzurro era sempre così bello. I fiori che Deacon e Mary avevano seminato crescevano come per magia. Papaveri di ogni colore danzavano nella brezza accanto ad un'infinità di fiori dai colori vivaci che da anni crescevano nel giardino e che ora sembravano chiedersi, è inutile tacerlo, come avessero fatto quelle persone mai viste a entrare in quel luogo. E le rose, oh, le rose, spuntavano tra l'erba, avviluppate intorno alla meridiana e ai tronchi degli alberi, pendendo dai loro rami. Si arrampicavano sui muri e li cospargevano di lunghe ghirlande, ricadendo poi in cascate, tornando a rivivere di giorno in giorno, tenere foglioline nuove e germogli minuscoli che si gonfiavano poco per volta, come per effetto di un incantesimo. E alla fine si schiudevano per diventare coppe di fragranze delicate, dai cui orli traboccavano i profumi che riempivano l'aria del giardino. Colin vedeva tutto e osservava ogni minimo cambiamento. Tutte le mattine, purché non piovesse, veniva portato fuori e trascorreva tutta la giornata nel giardino. Anche le giornate grigie gli piacevano. Si sdraiava sull'erba e guardava crescere le rose, come diceva lui. Se le si guarda a lungo, diceva, riesci a vedere i germogli che si schiudono. Si può anche fare la conoscenza di strani insetti affaccendati che corrono di qua e di là per compiere ignote ma evidentemente importanti incombenze. A volte alle prese con il trasporto di pagliuzze, minuscole piume o pezzettini di cibo, a volte intenti a scalare dei fili d'erba quasi fossero alberi, dalla cui cima si potessero esplorare i dintorni. Una talpa che buttava fuori la terra dall'estremità della tana per aprirsi un varco verso la luce con le unghie delle zampette tanto simili alle manine di un bimbo, aveva attratto la sua attenzione per un mattino intero. Il comportamento delle formiche, degli scarabei, delle api, delle rane, degli uccelli, delle piante era per lui un mondo nuovo, tutto da scoprire, e quando Deacon spiegò a lui e a Mary tutto quello che sapeva a riguardo, aggiungendovi anche qualcosa a proposito delle abitudini delle volpi, delle lontre, dei furetti, degli scoiattoli, delle trote, dei topi di fogna e dei tassi, gli argomenti degni di conversazione non ebbero più fine. E quella fu solo una piccola parte dell'incantesimo. Il fatto di essere riuscito a stare in piedi aveva dato moltissimo da pensare a Colin, e quando Mary gli rivelò la formula magica che lei aveva mormorato in quell'occasione, il ragazzo ne rimase profondamente impressionato e ne parlò continuamente. «Sono sicuro che il mondo è pieno di magia», disse un giorno con molta serietà, «ma la gente non sa come si manifesti. Forse basterebbe esprimere più volte con una frase il desiderio che qualcosa avvenga per farla avvenire veramente. Voglio provare». La mattina dopo, quando andarono nel giardino segreto, Colin mandò a chiamare subito il vecchio Ben. Ben arrivò in fretta e trovò il Raja in piedi sotto un albero, in un atteggiamento regale, ma anche con un bellissimo sorriso sulle labbra. «Buongiorno, Ben», disse. Voglio che tu, Deacon e Mary, stiate intorno a me ad ascoltarmi. Desidero dirvi una cosa molto importante. Bene, signorino, rispose Ben, toccandosi la fronte. Voglio fare un esperimento scientifico, spiegò il piccolo Raja. Quando sarò grande, farò importanti scoperte scientifiche. Voglio cominciare ora con questo esperimento. Bene, signorino, disse subito Ben, sebbene quella fosse la prima volta che sentiva parlare di grandi scoperte scientifiche. Quanto a Mary, anche lei ne sentiva parlare per la prima volta, ma già da un po' di tempo aveva cominciato a rendersi conto che Colin, sebbene fosse un ragazzo un po' strano, aveva letto molti libri che trattavano di moltissime cose curiose e che era, a modo suo, un ragazzo molto convincente. Quando sollevava la testa e guardava l'interlocutore con quegli occhi, sembrava naturale credere in lui, sebbene avesse poco più di 10 anni. In quel momento Colin era più eloquente che mai, posseduto com'era dalla piacevole sensazione di fare una specie di conferenza come fanno solitamente le persone adulte e importanti. La grande scoperta scientifica che sto per fare, proseguì, tratterà di magia. La magia è una grande cosa di cui nessuno sa niente, tranne pochissima gente che ha scritto dei vecchi libri. Anche Mary la conosce un po' perché è nata in India, nel paese dei fakiri. Io credo che Deacon conosca un po' di magia, ma forse non se ne rende conto. Incanta gli animali e la gente. Io non gli avrei mai permesso di venirmi a trovare se non fosse stato un incantatore di animali, che è come essere anche un incantatore di bambini, perché il bambino è simile a un animaletto. Io sono sicuro che la magia regni un po' dappertutto, ma che noi non la conosciamo abbastanza per padroneggiarla, per sfruttarla, come facciamo con l'elettricità, i cavalli e il vapore. Quell'inizio parve così interessante che Ben, eccitato, non riuscì più a star fermo. Bene, signorino, disse, cominciando a muoversi. Quando Mary entrò in questo giardino per la prima volta, proseguì l'oratore, le piante sembravano morte. Poi qualche forza misteriosa cominciò a spingere fuori dal terreno quelle piantine, a farle nascere dal nulla. Un giorno non c'era niente e il giorno dopo spuntavano. Io non avevo mai visto niente del genere prima di allora e questo fenomeno mi incuriosì. Gli scienziati sono sempre curiosi e io sarò uno scienziato. Cominciai a chiedermi che cos'è tutto questo, come accade. È certamente qualcosa, non è possibile che non sia niente. Non sapendo che nome dare a questo fenomeno, ho pensato di chiamarlo magia. Non ho mai visto il sole levarsi, ma Mary e Deacon l'hanno visto, e a giudicare da quello che mi hanno detto, sono sicuro che anche quella è magia. Qualcosa lo spinge dal basso e qualcosa lo tira dall'alto. Da quando sono venuto nel giardino, qualche volta ho guardato il cielo attraverso i rami e le foglie degli alberi, e ho avuto la strana sensazione di essere felice. Come se qualcosa si agitasse nel mio petto e mi facesse respirare più velocemente. La magia è sempre presente, spinge, tira e fa spuntare le cose dal nulla. Tutto è opera di magia. Foglie, alberi, fiori, uccelli, tassi e volpi, scoiattoli e persone. La magia deve perciò essere intorno a noi, in questo giardino, in ogni luogo. In questo giardino la magia mi ha fatto stare in piedi. E mi ha dato la certezza che vivrò e che diventerò un uomo. Ora voglio fare questo esperimento scientifico. Voglio cercare di avere anch'io un po' di magia, di metterla in me stesso e di fare in modo che mi spinga, mi tiri e mi faccia diventare forte. Io non so come devo fare, ma credo che se voi vi metterete a pensarle e la chiamerete, forse lei verrà da me, forse questo è il primo modo di ottenerla. Il modo più infantile. Quando cercai di stare in piedi per la prima volta, Mary continuò a dire tra sé più in fretta che poté: devi farcela, devi farcela. E io ce l'ho fatta. Nello stesso tempo ho dovuto, certo, mettere alla prova me stesso, ma il suo incantesimo mi fu di aiuto, e anche quello di Deacon. Ogni mattina, ogni sera, durante il giorno, ogni volta che me ne ricorderò, dirò a me stesso: l'incantesimo è in me, l'incantesimo mi farà star bene, diventerò forte come Deacon, forte come lui. E anche voi dovrete fare questo, ecco il mio esperimento. Mi vuoi aiutare, Ben? Certamente, signorino, disse Ben, certamente. Se continuerete a farlo ogni giorno, con la regolarità del soldato che esegue gli esercizi militari, vedremo che cosa accadrà e sapremo se l'esperimento avrà successo. Noi impariamo a memoria le cose a furia di ripeterle e pensando continuamente ad esse finché non ci rimangono impresse nella mente, io credo che sia così anche per la magia. Se continueremo ad invocarla perché venga ad aiutarci, diventerà parte di noi stessi e opererà per nostro conto. Una volta in India ho sentito un ufficiale dire a mia madre che certi fakiri ripetono le stesse parole migliaia di volte, disse Mary. Io ho sentito la moglie di Jim Fettleworth che diceva la stessa cosa migliaia e migliaia di volte. Diceva a Jim che era uno stupido ubriacone, disse Ben ironicamente. Ci sono delle mogli che fanno sempre i soliti discorsi. Una volta lui le diede una buona dose di sculacciate. Se ne andò a Leone Azzurro e si ubriacò come un gentiluomo. Colin aggrottò la fronte e rimase pensieroso per qualche minuto, poi il suo viso si rasserenò e disse allegramente: Come vedete, ne ha ricavato ugualmente qualcosa. Probabilmente quella donna utilizzò della magia cattiva che lo costrinse a picchiarla. Se avesse usato della magia giusta e avesse detto qualcosa di carino, forse lui non si sarebbe ubriacato come un gentiluomo e forse le avrebbe comprato un cappellino nuovo. Ben soffocò una risatina e guardò Colin con una certa ammirazione. Oltre ad avere le gambe dritte, signorino Colin disse: Sei anche un ragazzo intelligente. La prima volta che vedrò Bess Fettleworth, le dirò quello che la magia potrebbe fare per lei. Sarebbe molto felice e stupita se il tuo esperimento scientifico facesse effetto, e lo sarebbe anche Jim. Deacon aveva ascoltato quella conferenza con i grandi occhi luccicanti di interesse e curiosità. Teneva nocino e guscio sulle spalle e aveva tra le braccia un coniglietto bianco che accarezzava dolcemente. Con le lunghe orecchie ripiegate sul dorso, l'animaletto sembrava gradire moltissimo le carezze che Deacon gli faceva. «Credi che l'esperimento riuscirà?» gli chiese Colin, curioso di sapere a che cosa pensasse il ragazzo. Gli rivolgeva spesso delle domande quando si accorgeva che Deacon lo osservava o guardava le sue bestiole con un sorriso felice sulle labbra. Deacon fece un largo sorriso, un sorriso ancora più largo del solito. Sì, rispose, credo di sì. Sarà come quando il sole riscalda i semi, riuscirà di sicuro. Vogliamo cominciare subito? Colin e Mary ne furono felicissimi. Ricordandosi dei fakir e dei santoni visti nelle illustrazioni, Colin suggerì che sedessero tutti a gambe incrociate sotto l'albero, che costituiva una specie di baldacchino. Sarà come se sedessimo in un tempio, disse Colin. Sono un po' stanco e vorrei sedermi. Non cominciare a dire che sei stanco, osservò Deacon. Potresti togliere efficacia all'incantesimo. Colin si voltò e fissò gli occhi innocenti di Deacon. È vero, disse lentamente, devo pensare soltanto all'incantesimo. Quando si misero a sedere in cerchio, una certa aria di mistero aleggiò nel giardino. A Ben sembrò di essere stato costretto a partecipare a una funzione religiosa che solitamente cercava di evitare, ma poiché questa volta si trattava di una faccenda che riguardava il piccolo Raja, non si mostrò affatto riluttante, fu anzi lusingato di essere stato invitato a parteciparvi. Mary aveva un'aria incantata. Deacon teneva in braccio il coniglietto e forse all'insaputa di tutti fece qualche segnale magico perché quando si mise a sedere a gambe incrociate come gli altri, il corvo, la volpe, gli scoiattoli e l'agnellino gli si avvicinarono lentamente, mettendosi anch'essi in cerchio in atteggiamento di riposo. Oh, anche gli animali sono venuti, disse Colin con serietà. Vogliono aiutarci anche loro. Colin era proprio bello, pensò Mary. Teneva la testa alta come una specie di sacerdote e nei suoi occhi brillava una luce intensa. Il sole splendeva su di lui, filtrando attraverso il fogliame dell'albero. Ora cominceremo, disse. Mary, dobbiamo dondolarci avanti e indietro come fanno i fakiri? Io non posso dondolarmi avanti e indietro, disse il vecchio Ben. Ho i reumatismi. Oh, l'incantesimo ti guarirà, disse Colin con il tono di un grande sacerdote. Ma per il momento non ci dondoleremo finché non sarai guarito. Per ora canteremo solamente. Non posso neppure cantare, disse Ben con una certa irritazione. Mi allontanarono dal coro della chiesa la prima volta che cercai di farlo. Nessuno sorrise, erano tutti troppo concentrati sull'incantesimo. Allora canterò io, disse il grande sacerdote e cominciò. Il sole splende, il sole splende, questo è l'incantesimo. I fiori sbocciano, le radici cominciano a muoversi. Questo è l'incantesimo. È una magia esser vivi, è una magia esser forti. L'incantesimo è in me, è in me, è in me. È in ciascuno di noi, è nella schiena di Ben. Magia, magia, vieni e aiutaci. Ripeté quelle parole moltissime volte. Mary ascoltava come ipnotizzata. Le sembrava che tutto fosse misteriosamente bello e avrebbe voluto che quella strana cantilena non avesse mai fine. Ben cominciò a sentirsi calmo e sereno, come immerso in una specie di sogno piacevole. Cullato dal vicino ronzio delle api e dalla voce monotona di Colin. Deacon sedeva a gambe incrociate, con il coniglietto addormentato in braccio e una mano sul dorso dell'agnellino. Soot aveva fatto spostare uno scoiattolo e gli si era appollaiato su una spalla, con le grigie palpebre abbassate. Alla fine Colin tacque. Ora farò un giro intorno al giardino. La testa di Ben, che aveva cominciato a ciondolare, si rialzò di colpo. Hai dormito? Gli disse Colin. Niente affatto, borbottò Ben. Anzi, la predica è stata bellissima, ma ora me ne devo andare, prima che cominci l'offertorio. Non era ancora del tutto sveglio. Ehi, non sei mica in chiesa, aggiunse Colin. Lo so benissimo, disse Ben raddrizzandosi. Chi ha mai detto che ero in chiesa? Ho ascoltato tutto. Non mi è sfuggita una parola. Hai detto che l'incantesimo era nella mia schiena? Il medico li chiama reumatismi. Il Raja agitò la mano con noncuranza. Quella era una cattiva magia, disse. Presto starai meglio. Hai il mio permesso di tornare al tuo lavoro, ma torna qui domani mattina. Mi piacerebbe vederti camminare per il giardino, borbottò Ben. Era un borbottio amichevole, ma pur sempre un borbottio. Era un vecchio cocciuto che non aveva troppa fiducia negli incantesimi. Aveva infatti deciso che se lo avessero mandato via sarebbe salito sulla scala per correre in aiuto di Colin se ce ne fosse stato bisogno. Il piccolo Raja non fece alcuna obiezione e Ben rimase. Si formò il corteo. Colin era in testa, con Deacon da un lato e Mary dall'altro. Ben veniva dopo, seguito dagli animaletti. L'agnellino e il volpacchiotto si tenevano vicini a Deacon, mentre il coniglietto bianco saltava di qua e di là, fermandosi ogni tanto a brucare l'erba, e Soot chiudeva la marcia con l'aria austera di un personaggio importante. Il corteo si muoveva lentamente, ma con dignità. Spesso Colin, che si appoggiava al braccio di Deacon, si fermava per riposare. Di tanto in tanto faceva qualche passo da solo. Ben esercitava un'attentissima sorveglianza, pronto a intervenire se necessario. Colin manteneva la testa alta e si muoveva con portamento altero. La magia è in me, ripeteva, la magia mi fa diventare forte. Lo sento, lo sento. Sembrava sicurissimo che una forza magica lo sorreggesse. Una volta si mise a sedere su un sedile di pietra. Due volte si adagiò sull'erba e più di una volta si fermò sul sentiero per appoggiarsi a Deacon, ma non si arrese finché non ebbe fatto il giro completo del giardino. Quando tornò sotto l'albero da cui era partito, aveva le guance rosse e appariva esultante. Ci sono riuscito! L'incantesimo ha funzionato! Esclamò. Questa è la mia prima scoperta scientifica. Cosa dirà il dottor Craven? Disse Mary. Non dirà niente, rispose Colin, perché non saprà niente. Questo deve essere il nostro più grande segreto. Nessuno deve sapere niente finché non sarò diventato tanto forte da poter camminare e correre come gli altri ragazzi. Verrò qui tutti i giorni sulla mia sedia a rotelle e tornerò a casa sulla mia sedia a rotelle. Non voglio che la gente chiacchieri e faccia domande, e non voglio che mio padre venga a sapere qualcosa finché l'esperimento non avrà successo. Quando sarà tornato a Misselthwaite, andrò a trovarlo nel suo studio e gli dirò: Eccomi, sono un ragazzo come gli altri, sto bene e vivrò tanto da diventare un uomo. Sono guarito grazie a un esperimento scientifico. Non crederai i suoi occhi, esclamò Mary. Colin era raggiante, era sicuro ormai di guarire, e questo, anche se lui non lo sapeva, equivaleva ad aver vinto più di metà della battaglia. Più di tutto il resto lo stimolava il pensiero della faccia che avrebbe fatto suo padre nel vedere il figlio dritto e forte come tutti gli altri. La cosa che lo aveva umiliato maggiormente durante tutti quegli anni era stata quella di sentirsi un bambino malaticcio e deforme che persino il padre non voleva vedere. E il desiderio di rivalersi di quelle pene era ora molto forte. Sarà costretto a credere ai suoi occhi, disse. Dopo che l'incantesimo avrà operato e prima di cominciare a fare delle scoperte scientifiche, cercherò di diventare un atleta. Tra una settimana o due, disse Ben, comincerai a fare del pugilato. Finirai col vincere la cintura e col diventare il campione dei pugili professionisti di tutta l'Inghilterra. Colin lo guardò severamente. Ben, disse, non mancarmi di rispetto. Non devi prenderti certe libertà per il fatto che sei a parte del nostro segreto. Per quanta efficacia potrà avere l'incantesimo, io non sarò mai un pugile. Mi dedicherò alla scienza. Scusami. Hai ragione, rispose Ben toccandosi la fronte in segno di rispetto. Avrei dovuto capire che si trattava di una cosa seria. I suoi occhi ammiccarono e in cuor suo era immensamente soddisfatto. In realtà non gliene importava un bel niente del rimprovero, gli interessava soltanto che il ragazzo guadagnasse forza e vigore. Capitolo 24. Non era soltanto nel giardino segreto che Deacon lavorava. Intorno alla casetta dove abitavano i suoi c'era un pezzo di terra recintato da un muretto di sassi a secco. La mattina presto e la sera prima che svanisse completamente la luce fioca del crepuscolo, e tutti i giorni nei quali non si recava da Mary Colin, Deacon lavorava su quel pezzo di terra piantando o raccogliendo patate, cavoli, rape, carote e altre verdure che servivano alla mamma per preparare da mangiare per tutta la famiglia. In compagnia dei suoi amici animaletti, Deacon faceva veramente miracoli in quell'orto e non si sentiva mai stanco di lavorarci. Mentre zappava o raccoglieva i legumi e le verdure, a volte fischiettava, a volte cantava a squarciagola pezzi di vecchie canzoni yorkesi, a volte parlava con Fuli o Capitano o con i fratelli e sorelle ai quali aveva insegnato e insegnava ad aiutarlo. La mamma di Deacon amava molto andare nell'orto dopo cena. Di solito mangiavano al tramonto. Quando c'era ancora abbastanza luce per lavorare e lei era libera dai lavori domestici, spesso si sedeva sul muretto di sassi e stava lì a riposarsi un po' e a parlare con i suoi figli che intanto facevano qualche lavoretto nell'orto. Non c'erano solo verdure in quel pezzetto di terra. Deacon si era procurato dei semi e aveva piantato fra i cespugli di uva spina e perfino fra i cavoli erbe profumate. Poi aveva fatto crescere bordure di reseda, di garofanini e viole del pensiero. Erano tutte piante dalle quali poteva ricavare i semi per gli anni seguenti, o piante le cui radici ributtavano anno dopo anno e via via, da una sola, finivano per diventare veri e propri cespugli. Nel muretto di cinta, poi, Deacon aveva collocato, utilizzando i vari spazi fra un sasso e l'altro, piante di digitale, felci, crescione e altri fiori di siepe. L'insieme era molto piacevole a vedersi. Per far crescere bene le piante bisogna volergli bene, vero mamma? Sono proprio come tutte le altre creature del mondo. Se hanno sete bisogna dargli da bere, se hanno fame un po' di concime. Loro vogliono vivere, né più né meno come noi. Se qualcuna di queste piante morisse, mi dispiacerebbe troppo, mi sentirei un tizio senza cuore e ci starei molto male. Erano le ore delle confidenze, queste del crepuscolo, e così, quando Deacon tornò a casa quel giorno, la sera dopo cena, raccontò a Susan Sowerby che nel pomeriggio Colin era uscito dalla sua stanza e aveva passeggiato per il parco con Mary e con lui. La donna fu molto contenta di sentire queste cose, perché era sicura che l'aria aperta e più ancora la compagnia dei due ragazzi avrebbe fatto bene a Colin. Ma più contenta che mai fu qualche sera dopo, quando Deacon le comunicò che era stato deciso di farla entrare nel segreto e le raccontò per filo e per segno tutta la storia del giardino. Quando giunse alla parte finale, cioè a raccontare che Colin si era alzato in piedi per rispondere a Ben Weatherstaff, che lo aveva chiamato storpio, senza intenzione di offenderlo, ma solo ripetendo ciò che la gente diceva di lui, Susan Sowerby congiunse le mani ed esclamò: «Parola mia! È stata una benedizione che quella ragazzina sia venuta a Mrs. Waite. Riuscire a portarlo fuori e farlo stare in piedi. Tutti noi credevamo che fosse un povero ragazzo non sano di mente e con il corpo molto malato. Nessuno pensava mai che potesse alzarsi e camminare». Gli occhi azzurri della donna erano pieni di pensieri. «E Mary? Come sta lei? Marta mi ha detto che c'è stato un gran cambiamento nel suo carattere e nel suo modo di fare, oltre che nel suo fisico». Rispose Deacon: «A me sembra simpatica e brava e piena di buona volontà. E al castello? Cosa pensano adesso che Colin sembra cambiato, più allegro, meno malato, senza più quelle crisi spaventose?» «Non pensano niente perché non sanno cosa pensare», rispose Deacon. «Ogni giorno, si può dire, il suo aspetto migliora. Sta ingrassando e quel colore di cera di candela che aveva sul viso e sulle mani va scomparendo. Però lui ha deciso di continuare a farla un po' lunga, a lamentarsi», Deacon finì il discorso con una strizzatina d'occhio. «Ma perché, dimmi?» «Beh, è una sorpresa che lui vuol fare a suo padre. Se la gente sapesse quello che è accaduto, e soprattutto se lo sapesse il dottore, scriverebbe certamente a Mr. Craven, e allora la sorpresa non ci sarebbe più. Invece lui e Mary pensano che sarà bello, quando Mr. Craven ritornerà, che Colin entri camminando da solo nello studio e faccia vedere al suo papà quello che è riuscito a fare, cioè a guarire da tutti i capricci, i pensieri cattivi che lo rendevano infelice e a riprendere a vivere come un ragazzo normale». «Certo, si devono divertire quei due», ridacchiò Susan Sowerby. «Stanno recitando e non c'è niente che diverta di più i ragazzi che fare un po' di teatro. Ma continua, dico, raccontami ancora cosa fanno». Il ragazzo smise di sarchiare, si sedette sui calcagni e con gli occhi che gli brillavano per il divertimento raccontò: «Colin si fa portare tutti i giorni giù a braccia da John, il cameriere, e lo sgrida ogni tanto dicendogli che gli fa male qui o là, che deve stare più attento, che lui non è un sacco di patate da trasportare senza riguardi. Tiene sempre la testa piegata in avanti, in modo che il mento gli sta quasi sul petto e non la solleva se non quando siamo fuori dallo sguardo di tutti. Quando lo accomodano sulla carrozzina, brontola sempre, e Mary gli dà manforte dicendo: "Povero Colin, ti fa molto male, vero? Sei così debole." E se la godono un mondo a fare queste scene. A volte fanno fatica a trattenere le risate, ma devono fare questo sforzo finché non siamo nel giardino segreto. E allora lì danno sfogo alla loro allegria, affondando il viso nel cuscino per non far sentire i loro scoppi di riso ai giardinieri. "Il riso fa buon sangue", sentenziò la donna. "È la medicina migliore. Vedi come i bambini sani e normali ridono volentieri? Che ridano il più possibile. Ci guadagneranno in salute, sta sicuro. Ingrasseranno presto se ridono." "Stanno già ingrassando", disse Deacon. "E questo è il punto. Prima non mangiavano quasi niente. Ora hanno sempre fame. I piatti di Colin, che una volta tornavano in cucina quasi intatti, ora ci tornano assolutamente vuoti e lui dice che spesso vorrebbe chiedere una seconda porzione. Non lo fa perché questo metterebbe in sospetto l'infermiera, che ne parlerebbe al dottore, così addio sorpresa a Mr. Craven. Mary ha pensato di dargli una parte del suo cibo, ma Colin non vuole perché allora lei dimagrirebbe di nuovo, invece vogliono ingrassare e star bene tutti e due». Susan Sowerby scoppiò a ridere così forte che le vennero le lacrime. E si portò più volte agli occhi il lembo del suo grembiule blu. "Ah, Deacon", disse quando poté alla fine parlare. "Senti se ti va quest'idea. Quando tu vai là la mattina, potresti portare con te un bel secchiello di latte appena monto. Io potrei darti un pane croccante i giorni che lo cucino nel forno, o negli altri giorni una focaccia con le uvette o dei biscotti di avena, quelli che piacciono a voi bambini. Non c'è niente di meglio che latte e queste cose per nutrirsi. Così loro potranno mangiare questo spuntino sostanzioso in giardino e quando andranno a casa il pasto servirà a riempire gli spazi vuoti. Mamma, sei fantastica. Trovi sempre una via di uscita. Sì, saranno felicissimi." Stavano stanno crescendo e recuperando la salute, è naturale che abbiano fame. Sono come due cuccioli di lupo che hanno bisogno di nutrirsi per mettere su carne e diventare grandi e forti. E poi pensa come si divertiranno a recitare quest'altra commedia. L'aiuto di Susan arrivava proprio in tempo. Quella stessa mattina l'infermiera aveva detto, servendo la colazione: "Il tuo appetito è andato aumentando in questi ultimi tempi. Prima non volevi quasi mangiare, ora spolveri tutto." "Adesso mi piace mangiare", aveva risposto Colin, e osservando l'espressione della donna, aveva subito pensato che doveva stare in guardia se voleva mantenere il suo segreto. "Probabilmente è muovermi all'aria aperta che mi fa venire fame." "Forse", aveva ammesso l'infermiera, "in ogni modo ne parlerò con il dottore." "Che rompiscatole!" era stato il commento di Mary appena quella era uscita. "È capace di scoprire tutto." "No, invece, non scoprirà un bel niente." Ma poco dopo la donna era rientrata insieme al medico. Questo aveva cominciato a osservare Colin con aria meravigliata e sospettosa e a fare un sacco di domande. "Così? Ho sentito che vai fuori e ti trattieni parecchie ore. Cosa fai quando sei in giardino? Dove vai?" Colin aveva assunto la sua aria di distaccata superiorità. "Dove vado e cosa faccio sono affari miei. Vado dove mi piace stare. Ho dato ordine che non voglio nessuno in giro per i viali perché non mi piace che la gente mi guardi. Non è una novità questa." "Bene. Ho sentito che sci anche 2 volte, mattina e pomeriggio. Male non ti fa, ti trovo meglio, molto meglio del solito. L'infermiera mi ha anche detto che mangi più di prima adesso, con buon appetito." "Forse..." Colin si era sentito mancare il terreno sotto i piedi e aveva tentato di dare una risposta convincente. "Forse è un appetito non naturale." "Cosa vuoi dire? Vedo che di quello che mangi ne approfitti bene, ti trovo un po' ingrassato, hai preso un po' di colore, sei di umore meno tetro." "Il colore può essere dato dalla febbre", aveva tentato di giustificarsi Colin. "Mi sembra di averne un po'. Quello che si crede grasso può essere gonfiore. Io mi sento gonfio e febbricitante. In quanto all'umore, a volte chi sta per morire fa dei cambiamenti strani." Il medico aveva scosso la testa. Aveva preso il polso di Colin e ne aveva ascoltato i battiti. "Ma che febbre", aveva poi sentenziato. "E questo non è assolutamente gonfiore, carne sana, stai ingrassando perché tutto il tuo stato di salute va meglio. Se continui su questa strada non dovrai mai più parlare di morire presto. Tuo padre sarà felicissimo di sapere di questo tuo straordinario cambiamento." "Mio padre non deve sapere assolutamente niente", aveva allora urlato Colin con decisione. "Guai a voi se gli scrivete qualcosa. Io posso peggiorare di nuovo da un giorno all'altro. Forse stanotte stessa potrebbe venirmi una febbre violenta, una crisi. La febbre me la sento già. E voi volete scrivere a mio padre che sto bene? Mi fate inquietare davvero e sapete che mi fa male. Sento che la febbre va crescendo. Non voglio che scriviate niente a mio padre. Non voglio che si parli o si scriva di me. Lo sapete, dovreste saperlo." "Calmati, calmati", aveva allora detto il dottore. "Nessuno scriverà a tuo padre senza il tuo permesso. Ma sei un po' troppo suscettibile. Te la prendi per tutto. Cerca di non rovinare il miglioramento che hai avuto." Il dottore se n'era andato e nel corridoio aveva raccomandato anche all'infermiera di non toccare più il tasto lettere a Mr. Craven. "Io devo andare a Londra per una quindicina di giorni", aveva detto il medico. "Vedremo quando torno. Certo, è innegabile un grosso miglioramento, ma vede, lui sta facendo ora, per sua decisione e per sua volontà, ciò che non siamo riusciti a fargli fare in nessun modo negli anni passati. Sta veramente molto meglio ora, però è ancora molto facile ad eccitarsi e dobbiamo evitare assolutamente di farlo arrabbiare." Intanto Colin e Mary, nella stanza accanto, si erano guardati pieni di apprensione e poi immediatamente avevano tracciato un piano d'azione per i prossimi giorni. "Sarò obbligato ad avere una crisi una di queste sere", aveva detto con aria tristissima Colin. "Non ne ho nessuna voglia e francamente non so neanche se mi riuscirà bene. Sono troppo contento di vivere adesso per ridurmi in quello stato tragico. Non so proprio se riuscirei a fingere quella disperazione, quel groppo alla gola che mi prendeva per quei pensieri paurosi che mi venivano. Ora non so più cosa sia. Ma se continuano con la storia di scrivere a mio padre, dovrò pure far qualcosa per spaventarli e fargli cambiare idea." Avevano pensato di ricominciare a mandare in cucina le pietanze quasi intatte, ma l'idea era stata scartata subito perché l'appetito si faceva già sentire la mattina presto e la colazione pronta sul tavolo, accanto al divano, col pane appena brustolito, il burro fresco, le uova battute con lo zucchero, la marmellata di lamponi, la panna e il tè, era una tentazione che non si poteva allontanare. Mary era solita far colazione con lui adesso. E le mattine in cui oltre al resto venivano portati in due piattini d'argento anche due uova fritte su due fette di profumato bacon sfrigolante, lo sguardo che i due si scambiavano pensando di doverci rinunciare era proprio di disperazione. Credo che non succederà niente se oggi mangiamo tutto, Mary, diceva alla fine Colin. Manderemo indietro qualcosa a pranzo o a cena se c'è qualcosa di meno buono. Ma non riuscivano mai a trovare qualcosa di meno buono, perché l'appetito è il miglior condimento e rende gradevole qualsiasi piatto. Così, la mattina che Deacon, dopo 2 ore di lavoro nel giardino, andò dietro un cespuglio e tornò, portando due sporte che contenevano il secchiello di latte e un tovagliolo candido di bucato con dentro una focaccia con l'uvetta, ci fu uno scoppio di vera e sorpresa allegria. Com'era stata carina la mamma di Deacon a pensare una cosa così. Che donna gentile e intelligente, come capiva i bisogni dei ragazzi, com'era buona quella focaccia e quel latte così fresco e cremoso. Fa anche lei parte dell'incantesimo, come Deacon, affermò Colin. Quell'incantesimo buono che governa il mondo e che suggerisce alle persone quali sono le cose buone da fare e quali sono i sistemi per farle. La mamma di Deacon sente queste cose, sono sicuro. Dille da parte nostra che le siamo molto grati, Deacon, esprimile la nostra più profonda gratitudine. Era un po' buffo Colin quando usava queste frasi da libro stampato, come l'ultima del suo discorso, ma le aveva sentite usare dai grandi. La sua vita era trascorsa in mezzo a persone che si trattavano in modo molto formale e qualche volta lui non sapeva trovare parole semplici per esprimere i suoi sentimenti.